sono le 21 qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info per quanto riguarda la possibilità di ascoltarci via web. Spazio che andrà avanti sino alle 22.30 e credo che anche per questa sera 25 o'clock non vada in onda, ancora in vacanza. Ricordo la sempre urgente questione della vita economica di questa radio, quindi vi invito a sottoscrivere andando sul sito della radio, ci sono le varie modalità di adesione per questa realtà completamente autogestita ormai da lontano 1977, quindi conto corrente postale, bonifico, carta di credito, eccetera. Saluto Desde Carlo a Boston, Stati Uniti, Tiziano Farinacci di Pigreco, Doriana Panico a Taranto, Gianluca Becuzzi, storia della musica sperimentale italiana, Maya in Umbria. Un saluto a Barbara, a Cecilia Miradoli di Pinda, Moschita de Miramar che ci sta ascoltando in Olanda. Un saluto a Massimo Oders Mascheroni, Tabula Rasa, Ernesto Panico Brusati, Antonio Zoviet di Omicidio, Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo, Anna qui a Roma, Venusa Stramonio. Un saluto a Audio Chaos, al medico della peste, e quindi siete anche questa sera sintonizzati su Radio Onda Rossa, che ci fa piacere, e noi si va ad iniziare. Saluto anche Uno Salin. Dicevo, si va ad iniziare con un primo progetto italiano. Lui è Deca, Federico De Caroli, che ci siamo ascoltati un paio di settimane fa prima della pausa di mercoledì scorso. L'ultimo suo album si chiama Antimateria Psichica. Album ultra rarefatto, vero e proprio esempio di drone music. Questa sera ho deciso di mandare un paio di tracce dal nome Plasma Hydra e Aura Theta. Eccolo qua, dunque, Deca, Federico De Caroli, ancora antimateria psichica. Ecco, è ancora un'altra traccia, come già detto prima, si chiama Epsilon Reticuli. La criptica ambient di Deca, Federico De Caroli, in questo ultimo suo lavoro. Come ho già detto, antimateria psichica, un titolo indubbiamente affascinante per noi che magari anche musicalmente affrontiamo determinate tematiche. Giustamente Antonio Zoviet, che vado a risalutare, lo paragona a Lastmord, soprattutto nella traccia precedente. Mentre questa Epsilon Reticuli c'è stato un frangente più dinamico, pur conservando di fondo questa malata oscurità. Saluto Like a Wake, qui di Roma, Stefano Tiserio, Laura Spirit Crusher, Marco Milanesio di Disordine non solo. Salutiamo anche Sara K.O. Fontana, Luca Purumni Hill, LPN, salutiamo anche lui. Adesso andiamo in casa di Raffaele Pezzella, la Nesplit Sounds Group Label. Ovviamente non ha bisogno di presentazioni, una moltitudine sterminata di lavori, compilation, ma non solo. E infatti questa sera accendiamo i riflettori su Michael Bonaventure, che nasce come organista in quel di Edimburgo, per poi andare ad unire il tutto alle avanguardie più sperimentali. Comunque quello che abbiamo sotto mano è un compendio, si chiama Works 2018-2023. Questa sera ho scelto la traccia più lunga effettivamente, che porta il nome di Astromorph. Le austere soluzioni d'organo attuate da Michael Bonaventure, personalmente uno dei miei preferiti negli ultimi anni, tra tanta buona musica che ci circonda, fortunatamente come motore esistenziale. Questa era Works 2018-2023, una prima parte di questa Astromorph dai contorni quasi onirici e poi una seconda parte decisamente più visionaria, anche robotica. Tra i nostri ascoltatori abbiamo anche dei musicisti. Uno di questi, per esempio, è Ernesto Panico Brusati. Ebbene, lo avevamo già apprezzato qualche mese or sono e questa sera ci andiamo ad ascoltare la sua ultima fatica, che porta il nome Nel Mai, forse un album leggermente più votato al post rock, ma permangono delle soluzioni decisamente d'avanguardia. E questa sera ho scelto la prima traccia che apre questo lavoro. Le tracce sono quattro. Ci ascoltiamo la prima parte di questo lungo brano di 20 minuti circa, dal nome Lebensraum, dove non osano le Banshees. Registriamo dunque il ritorno di Ernesto Brusati con questo Panico da palcoscenico, il suo progetto che ci regala una nuova uscita dal nome Nel Mai. Qualcosa di occulto ma anche di impervio e lacerante, atmosfere proprio da disgrazia incipiente, una tensione non indifferente pervade l'intera traccia, ben 20 minuti. Esattamente Lebensraum, dove non osano le Banshees. Dice ben Antonio, sarebbe un'ideale colonna sonora per un Argento, un Bava, e quindi una colonna sonora per un thrilling, uno splatter o qualcosa del genere. E permane chiaramente anche le influenze, magari anche dello stesso Atrax Morg, che ha influito su tanti musicisti negli ultimi anni. Buonasera a Lucia Cagliazza, Lupsi, anche lei ha arricchito molte puntate di prove tecniche di trasmissione. Saluto Marco Mascia in Sardegna di Progetto Sonoro, che presto ascolteremo in questo spazio, Is It All. Ancora Italia, ne abbiamo molta anche per questa sera, e ci andiamo ad ascoltare uno dei due lavori usciti per quest'anno per quanto riguarda Gianluca Becuzzi. Prima delle ferie avevamo iniziato con We Can Be Everywhere, un doppio CD. Vado anche a segnalare una ultimissima uscita dal nome Black Mantra. Ma a noi per un po', appunto, studieremo meglio questo We Can Be Everywhere, che ha del materiale sia del 2014 ma anche più recente. E questa sera ci ascoltiamo la seconda traccia, fatta in collaborazione con Raimondo Gaviano di Schwarzhain, che porta il nome di The Screaming Torso, e poi In Black One. Proviamo a usare questo lettore CD che ci ha dato qualche problemino lunedì scorso, in caso contrario avremo altre alternative. siamo costati dunque Gianluca Becuzzi, We Can Be Everywhere, questo doppio CD, un bel cartonato nero per la Final Music, uscito anche questo nel 2023. Un inizio furente, una vera botta che ha dato l'inizio alla seconda traccia a The Screaming Torso, e poi comunque le atmosfere erano sempre incalzanti al loro modo, con questi tramisti, questi scricchioli inquietanti che hanno echeggiato in entrambi i brani. E salutiamo dunque Becuzzi, che qui si è anche avvalso dell'ottima collaborazione di Raimondo Gaviano e in altri brani Lino Monaco, Nicola Buono e Cristiano Deison. Il buon Becuzzi è toscano, anche se ormai vive a Roma da un po', e noi invece andiamo a Firenze, da un personaggio che in realtà, se non erro, proviene invece dalla Calabria. Lui è Anto Zoviet, e ormai lo conoscete tutti quanti come Omicidio. Anche lui ci ha deliziato nel 2023 con un album dal nome Frequenze di Morte. Anche lui si rifà alla tradizione Death Ambient di Atrax Morg, del compianto Marco Corbelli. E quindi non ci rimane che andarci ad ascoltare Frequenza numero 3 e numero 4.